ci vediamo quelle due ore, qualche aperitivo, ma niente particolare, prima ero a carezzare, non si ne va a vedere. E poi a caldo, se sono in compagnia, la caraffettina del vino con la gazzosa, con l'acqua minerale, lo bevo tranquillamente, ma fuori dai passi non si vuole più nulla, se no via via, se no mi cade manco il battaglione mio. Poi con la gazzosa si può scherzare, ho letto cosa mi è successo a me, ti aspetta, mi avevano trovato troppi zuccheri nel sangue, capito? No, abbiamo fatto i tesi, lo sai che i tesi ti fanno, ti mettono tutti i cerchietti dietro la schiena. E grazie a Dio non avevo niente, poi mi hanno tolto un pezzettino di carne per analizzare, perché c'era un inizio di psoriasi, e ha causato tutto dal vino della gazzosa, ma guardi, io avevo un boccione, non è che ne avevo poco, no? Ma forse anche in quello. Rimango lì poi quei vinili leggeri con la terra di gazzosa. Ma c'è che oggi non ne abbiamo preso gazzosa. Vino normale con la bottiglia d'acqua gasata. E adesso come fu così perché mi ha fatto spaventare l'altro giorno. Non sono neanche un grande bevitore. Questa è compagnia già metti fuori in mezzo. Dove non è problema. Non problema, d'estate mi piace il vino fresco con la gazzosa, d'inverno non con la gazzosa. Mi piace a volte bere anche qualche bicchiere di ragazzo, ma mi stufa subito, non... Cioè se siamo in tre, per esempio, o in due, per me non bottiglia di birra, io mi guardo e non la voglio più. Invece ci sono grandi bevitori di birra, io ho quelli che fanno paura a casa, ma uno un bicchiere dietro l'altro. A me non mi gonfia proprio, cioè che mi stufa, capito? Sì, succede veramente. Ma io già la bevo lentina, anche mangiando la birra, però se non mi sdegna, se c'è un bel bicchierozzo di vino buono, di proprietà, lo bevo lentina. Però di solito bevo birra, ma in effetti hai anche ragione, la birra gonfia e stufa pure, è la verità. Però mi piace, la bevo. Oh, quando sto a stufarmi, e poi c'è stato d'inverno, riprenderò col vino perché è meglio mangiando due o tre bicchieri di vino, ma è più sano, diciamo. Vino è di proprietà, se poi non è vino di proprietà, sì, lo bevo, ma gradatamente, capito? Dipende. Se è buono, piace anche a me, ma diventa già un pochino pesante e quindi bisogna smorzarlo leggermente o con l'acqua o la gazzosa. Ma i vini così, quelli leggeri, quelli lettori, che si filieri, che si gaggati, che si fanno, non c'hanno niente di vino, è tutta la cosa. Anche lì a Vasinara c'è quello in Cosomi, alla Spina, quindi so che si... Passavo di nuda Eva, ti accompagna, insomma, mangiando, oggi abbiamo mangiato il caffè di lusso, ci ha fatto le bavettine all'artice, poi il calamari arrosto, c'era un gamberone, cazzoni a gambarone, tutta roba era già preparata nel menù, da pensare che c'era qualche comitiva che era meno niente, ha fatto una tavola già mangiata, quello che stanno mangiando loro, quindi non ho preso manco il tempo, ma di lui la mia ma niente. Siamo usciti 5 minuti, ci ha fatto l'acqua e il vino ed è arrivato subito il primo, appresso. Capito? Quindi già va bene, no? Ci siamo. Tutto. La cosa mi si piace, stamattina io ci dovevo i pantaloni. Tutti in ordine. Cazzonata dalla mano, collega, a scaricare. Quattro, quelli ci hanno mandato a mezzogiorno, con quello che è arrivato a mezzogiorno, il traghetto. Ci hanno mandato la chimica sala un po' di vino di cloro, ho chiesto, mi hanno imbarcato la polottosi, quindi mi hanno arrivato il traghetto, la nuova sono andato a prendere, la tornata a scaricare nella furgonetta, tanto mi erano due piccoli, ma cagato, tutti ribaltavano la maglietta di cloro, non lo posso bariacca. Ah, è vita, è stata rovinata, la nuova di così. pantaloni? Che c'ho io i pantaloni? Li ho messi stamattina. Li ho comprati lunedì. Mia moglie ha detto, il gatto ce ne prende un paio di jeans, due paio di jeans per lavorare, che gli altri pantaloni me li riservo un posto. E invece mi ha detto, che cavolo mi ricordo, mi ha detto, mi ha detto, mi così come te li zingari. E me li ho tutti macchiati, mi dispiace. Sì, vabbè, pazienza, Claudia. Lo so, poi tu te li bucca, lo so. Adesso è del roba da mettere via, a montare addirittura, perché te li bucca. E io, vabbè, dai. E purtroppo succedono queste cose, Claudia. E cosa mi va? E io, vabbè. Non so quanto ho mai scimpiato, quanto ho per lavorare, ma che cosa, marecchina a me, non è pingo, purtroppo è così, si sta lavorando, ma altro lato scusa, non pensavo che per adesso, va, non mi ha che mi cassarla. Infatti vai, tu cazzo sempre un cazzo, scelto, vai, non mi ha detto, mi chiama più a me. Grazie. settentrionale minima e quindi non rimane attaccato. C'è un video da 80, ma ti dice molto la gialla appiccato al coso, al partitore lì, del differenziale. Allora la abilità è cosa male. E invece lo cerchiamo l'arma, ma lo cerchiamo anche il positivo che va al quadretto, che dà il consenso poi per il livello massimo della pompa, poi una volta galleggiante gira, parte e tira. E invece è una partita perché ha rosicchiato anche quel filo, capito? Abbiamo girato un po' la male perché abbiamo dovuto tagliare, giuntare, vulcanizzare, perché sono galleggianti che rimangono a bagno. Ed è brutto, lo vede uno e dice, cazzo, ma cosa è fare questo? Non viene in gavo. E allora ho avvisato e è successo così. E giovedì lo cambiamo, mettiamo nuovo. Poi ho detto, quel cavo antitoppo, ci sono in quei cavi duri, dove non riesci a rosicchiarlo, perché rosicchia il cavo, quello in gomma a 6 mm, quello grosso a 6 da 8. L'importante è che lui rosicchia, lo va a morbida, se invece trova quello leggero non lo buca con i denti. E quindi lo lascia stare. E buon guiscio, non vedi, non c'è mania più. E se non lo metto, non ti va a tirare la figo. No, ma se ci sono i figli che bene mettere quelli anche il topo, e beh, in effetti loro rosicchiano tutto, ma se fosse andata corrente alta, avessimo avuto attaccati di via vedo. Non te l'ho raggiunto la troppo un po' attaccata, ma già era attaccato a Lugosio, dove c'è il settimatore, ma che? E chi mi passa per l'80? Pronto, si arrivo, lui passa per l'80, provato attaccato, ma in mezzo, e quindi tra la settimatore e la 380, e quindi non passava attenzione, mi ha fatto scattare il fuggibile grande del settimatore. E vabbè. Animali che stanno in tutti i posti, anche se sono puliti, però loro i vivi se li fanno lì. Anto, come senti, mi hanno chiamato, quindi dammi il tempo di mangiare un boccone e poi sono di nuovo qua, ok? Madonna, dai, fai un buon carica e ci ascoltiamo la Trappi. Ciao ciao. Appoggiamo la Trappi. Ciao, ciao, ciao, dopo. Amanto. Ebbene, Giorgio. Caricato? Sì, finito adesso. Un cosettino veloce, non è che non è già stato saregana, ma io ho finito tardi a pranzo di mangiare. Quindi, altrimenti, poi non si digerisce. Buon macelloni, oggi mangiare buon macelloni, ragazzi, perché se non è tutto di bar. Allora, non ci va. Ma quando lo voglio, non vado mai. Vabbò, vai, mangiate un pezzo, vai, ti fa bene. Faccio fumare una sigaretta, poi più tardi me la mangio. Gappa, gappa, andrà bene, andrà bene. Allora, si è sentito? Ma la verità mi sono spostato un attimino, ma penso non sia entrato, No, c'avevo il volume qua, io sul 10 non l'ho sentito, ma che non è entrato qualcosa da parte, no. Non intendo. Vabbè. Stavo dicendo. Cazzo, io ti dico, una cosa, cosa non me la metto. Oggi cazzo mi sono rincoglionito proprio. No, alle volte succede alle volte. Noi diciamo succede, giù crolla. Vabbè. E già capita di avere ogni tanto un po' di varioni del vedo. No, ancora pensiamo a quella con interventino che abbiamo fatto. Beh. E poi come ti ha detto di una di un peso da rientrare a due, perché c'è la canna laterale, ma si è entrato dal tombino di sopra. Dal tombino di su. Mi avrei mai detto, non li vedi, ma sono sempre nascosti, vedi. Che animale, cazzo, mamma mia, che schifo che mi fa, ma cazzo, un animale così schifoso che... Vabbè, poi si è piattissimo, entra in una fissura. registratore. Ma appunto sono impotenti i piedi e c'era qualche problema. Siamo andati e non l'abbiamo aperto. Ci siamo accorti, ma l'abbiamo visto, si vedeva tranquillamente. Ci siamo accorti che il cavo era mangiato, era rosicchiato, quindi. Più credo, ma l'ha detto non può sì. Altri animali che rosicchiano il cavo così, tanto non veneno. E lui, il signor Giorgio, che si vedeva che era autopulito con coso, con la benzina, e poi l'ha tagliato e gli ha messo le giunture, l'ha vulcanizzato, ma ti ripeto, giusto per emergenza, poi giovedì, perché domani non ci vado a portarglielo, ma giovedì vado. Le porto i galleggianti nuovo e lo faccio mettere, se no è una gaglietta. Non mi se ne era entrato, ma poi se ne è entrato dalla camera di sotto dove c'è l'arrivo dal depuratore sicuramente. E invece tra l'altro qualche buco già l'ha trovato, perché è possibile che lo, se ne è sigillato bene, è possibile, ma lui già se lo fa apposta da sotto. Poi si nota lì. Sta giunto morendo, chi si rimonia? Qui ci sono dei grandi nuotatori, lui in campagna se li mette nell'acqua, affogano subito, ma chi si? E poco cammelleggia, e entra il tubo, cammina, entra il tubo dei rivi del depuratore, dei pozzetti, dove sono i galleggianti, le pompe, del rilancio. Lì entrano, ma la vetti che sa. Vabbè. Pazienza, cazzo, è stato il momento che c'è dove di sì, vabbè, già te lo ricorderai, e se lo domani mattina se te lo ricordi me lo dici. Sai che le signore te l'ho capito, voglio mosci tanto al Veneto, cioè, accettami il biglio. Sì, caffè la sua qua. Y yo, te voy a pasar. Sicilia e niente.